Letture di Radio 24. Mentre in Inghilterra lo scandalo delle intercettazioni ha portato Rupert Murdoch in tribunale, da noi la pubblicazione di dati privati continua ad essere considerata un fatto normale. Ma c'è una differenza tra le due intercettazioni, come spiega Roberto Saviano. Perfino l'oracolo di Delfi si era dato una regola. Non poteva essere consultato dai cittadini più di una volta l'anno. Roberto Saviano, invece, predice il futuro e si propone di dirimere le nostre dispute due o tre volte al giorno, per 365 giorni all'anno. E ci sarebbe da ringraziare il cielo se, nell'ansia di procurarci una vita perfetta, non si facesse talora prendere la mano. Negli ultimi giorni, per esempio, l'oracolo nazionale si è sobbarcato alla fatica di spiegarci, su Repubblica, come si rispetta davvero la privacy. La differenza, cioè, tra le brutte intercettazioni inglesi, in seguito alle quali non pochi giornalisti sono finiti in galera, e le belle intercettazioni italiane, in seguito alle quali non pochi colleghi italiani raccattano riconoscimenti alla carriera. C'è infatti chi equipara, è la denuncia di Saviano, le intercettazioni pubblicate dai nostri giornali ai metodi inglesi, mentre sono il frutto regolarissimo del lavoro della magistratura. Insinuare che vi sia qualcosa di illegale è come dire che dopo l'11 settembre bisognava vietare tutti gli aerei. Sciagurato paragone, si è indignato l'oracolo. Attento a non domandarsi, però, in quale altro paese potrebbe succedere che si pubblichino paginate di intercettazioni, con particolari privatissimi sulla vita degli intercettati veri e propri, e degli intercettati per caso. Potesse mai servirgli? In Germania niente del genere sarebbe possibile. È vietato, dice Jörg Bremer della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mai, in Francia, sono state pubblicate intercettazioni con particolari privati, privi di interesse pubblico, riferisce Eric Joseph di Libération. Grazie al noto cortocircuito mediatico giudiziario, in Italia invece è pensabile. Ma Saviano è indignato. Lo indigna il giornalismo ricattatorio che bada agli interessi dei propri mandanti politici senza rispettare niente e nessuno. Ha ragione, lui è talmente vicino a quel tipo di giornalismo da non riuscire a distinguerlo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Marcenaro «Vi spiego la privacy, a senso unico», da Panorama del 27 luglio. Stabilità economica a colpi di maiale. La grande economia cinese, si sa, si trova a dover bilanciare attentamente crescita e inflazione. Il suo PIL ha segnato nel secondo trimestre un più 9,5%, un rallentamento rispetto al più 9,7% del trimestre precedente. Ma per quanto riguarda il secondo fenomeno, il paese in questi giorni si trova a dover gestire un pessimo segnale, il prezzo record del maiale. La principale carne consumata in Cina è aumentata del 70% in un anno, colpa, a sua volta, del sempre più caro prezzo del mais, con il quale viene nutrito il bestiame. La carne suina è così diventata il motore della rapida ascesa dell'inflazione nel mese di giugno, in crescita del 6,4% rispetto all'anno precedente. Salvare il porcello per tenere sotto controllo l'inflazione, ha sintetizzato di recente il premier Wen Jiabao. La stabilizzazione del mercato della carne di maiale è una responsabilità imprescindibile del governo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «L'inflazione in Cina dipende dal maiale», dal Magazine 7 del 21 luglio. Letture di Radio 24. Il PM Pietro Forno, da sempre ossessionato dall'idea di perseguire i pedofili a qualunque costo, negli anni 90 era salito alla ribalta delle cronache per aver mandato in carcere degli innocenti, accusati di reati sessuali poi rivelatisi inesistenti. Giovedì scorso è tornato a far parlare di sé per aver assolto tutti gli imputati della triste vicenda che vede coinvolti due fratellini di Basilio, che nel 2008 furono sottratti ai genitori per oltre due mesi, senza sapere nulla di mamma e papà e senza conoscere quale sarebbe stato il loro destino. Tutto era nato da un disegnose attribuito alla bambina, ma in realtà eseguito per scherzo da una compagna di classe. In seguito i genitori dei due fratellini presentarono denuncia nei confronti di quelli che ritenevano responsabili della sottrazione dei loro figli, la preside della scuola, l'assistente sociale, lo psicologo e le insegnanti, che avevano fatto partire l'indagine pur sapendo che il disegno non era stato fatto dalla bambina. Tutti assolti. Il fatto non sussiste. Di che stiamo parlando? Con un'altra delle sue sentenze ineccepibili, come si ama dire, in linea di principio, la giustizia italiana mette una pietra sopra la storia di Basilio. La preside, le maestre, lo psicologo, l'assistente sociale ci hanno lavorato sopra in cinque, ma nessuno ha commesso errori. Nessuna falsa testimonianza, nessuna omissione, niente di cui pentirsi. E allora, siccome i bravi cittadini devono sempre prendere per buone, meglio, per sacre, le sentenze dei tribunali, dobbiamo solo registrare con atteggiamento notarile quanto segue. Due ragazzini di 9 e di 13 anni sono finiti per 2 mesi in un incubo terrificante che non li lascerà fino alla fine dei loro giorni, senza colpe di nessuno. C'era quel disegno allarmante sotto al banco della bambina, c'era la didascalia che parlava di rapporti sessuali a pagamento con il fratello. C'erano tutti gli elementi per allertare il delicatissimo sistema di protezione e di garanzia, quel sofisticato apparato di indagini e di colloqui molto discreti che devono sempre avere al centro il bene dei bambini. E come no, i bambini li mettiamo sempre al centro, negli asili, nelle scuole, negli ospedali, ma poi finisce che devono un attimo mettersi da parte, sullo sfondo, perché noi dobbiamo lavorare e loro devono avere l'accortezza di lasciarci lavorare. Ovviamente per il bene loro. Per il bene loro, i fratellini di Basilio vengono allontanati dai genitori. 2 mesi che possiamo solo immaginare, ma che possiamo immaginare piuttosto bene, se ancora abbiamo questo genere di immaginazione semplicemente umana, comunemente definita sensibilità. Temono di non rivedere più la mamma e il papà, temono di finire in un'altra famiglia, temono il buio e la disperazione. 2 mesi. Già sarebbero tanti 2 minuti in questo gelido senso di abbandono. Ma loro devono goderseli senza possibilità di fare nulla. Piccoli, non potete capire, i grandi stanno lavorando e fanno tutto per il vostro bene. E pazienza se una compagna di classe, già pochi giorni dopo, ammette tranquillamente d'aver disegnato lei la porcellata. Bambini, non è semplice come pensate. La giustizia mette al centro la vostra serenità, vuole andarci cauta. Deve essere certa che tutto sia davvero a posto. E poi, santa pazienza, il mondo dei grandi ha le sue regole, le sue procedure, le sue norme di garanzia. Voi state tranquilli qui, lontani da mamma e papà. Quando sarà il momento giusto, lo decideremo noi. Siamo qui apposta, ci hanno incaricati della vostra tutela. Per noi, la vostra tutela è sacra e inviolabile. Mentre là fuori tutti si fanno in quattro per tutelarli, i due fratellini vivono ore di angoscia che nessuno medicherà più. Già si certifica come il più grande evidenzi segnali preoccupanti. Ma che vogliamo fare? Che vogliamo dire? Sono i danni collaterali. Sulla quantità può scapparci una svista, un difetto di comunicazione, una divergenza di valutazioni. Diamine, stiamo lavorando. Nessuno qui si diverte a prendere certe decisioni. C'è di mezzo il bene dei bambini. Proprio quei due bambini che intanto vivono lontani dalla loro casa, dalla loro famiglia, dalle loro certezze. E ti pare poco? Poco o tanto che sia, la Corte decide. Tutti assolti, il fatto non sussiste. Ognuno torni al suo posto e facciamo finta che non sia successo niente. In fondo, cos'è successo? All'epoca, come nel lieto fine, la situazione s'era poi chiarita e i fratellini erano tornati a casa. Che saranno mai 2 mesi? Ha voglia adesso la mamma di dire cose forti. Hanno rovinato 2 bambini. Provo schifo. Ma in nome del popolo italiano i tribunali mettono in conto anche questo, il normale e inevitabile sfogo di una mamma. Le mamme sono tutte uguali, non si può chiedere loro di capire il rigore della legge e le supreme esigenze della tutela minorile. Quanto a loro, ai piccoli che tutti hanno superbamente tutelato in tutte le maniere, possiamo stare tranquilli. Ne usciranno persino più ricchi e più forti. Alla loro giovane età hanno già imparato quanto è giusta la giustizia degli adulti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Cristiano Gatti, Quanto impegno per rovinare la vita di due bambini, dal Giornale del 22 luglio. Perché i vari pacifisti intellettuali che sono sempre pronti a criticare la politica di Israele non trovano mai parole di condanna per quello che succede ai curdi, agli uzbeki o agli uiguri? Il vero problema è che dietro al diffuso antisionismo c'è il pericolo di un ritorno all'antisemitismo, scrive Pierluigi Battista nel suo libro Lettera ad un amico antisionista. Se si critica il governo Berlusconi o il governo Prodi, non si dice mai, o quasi mai, criticare l'Italia. Però, con sospetto spostamento lessicale, si dice sempre criticare Israele, che non è un'espressione neutra. Allude infatti alla critica a uno Stato in quanto tale, non al suo governo. Se si critica un governo, il bersaglio è una politica, una scelta, una strategia, un modo d'essere, un modello culturale, una critica provvisoria e non permanente, episodica e non ontologica. Ma se si critica uno Stato, Israele, allora nel mirino non c'è una politica, una strategia, eccetera, eccetera, ma lo Stato stesso. Una critica permanente e non provvisoria, ontologica e non episodica. Questo è il cuore del problema. Se affermi «ho il diritto di criticare la politica del governo israeliano senza passare per un antisemita», siamo d'accordo. Ma se continui con il tuo «ho il diritto di criticare Israele» e basta, allora hai con l'antisemita almeno un argomento in comune, un'ostilità pregiudiziale nei confronti dello Stato degli ebrei, che storicamente si chiama Stato di Israele, sottoposto a critica solo perché esiste e non per ciò che fa. Ecco perché non stupisce l'indifferenza di molti intellettuali occidentali verso le mostruose manifestazioni di anti-ebraismo che sgorgano come miasmi in tutto l'universo militante che ha fatto dell'antisionismo la sua bandiera. Mentre si asciugano le lacrime dopo aver visto Schindler's List, non sembrano molto scossi quando Ahmadinejad convoca a Teheran l'internazionale negazionista per denunciare la menzogna di Auschwitz. Si congratulano con «La vita è bella» di Benigni, ma mostrano solo una distratta e rassegnata reazione quando si apprende che nella televisione palestinese si trasmette la seguente predica: «Il mio spirito si elevò quando un giovane mi disse: "Oh Sheikh, ho 14 anni, ancora 4 anni e poi mi farò saltare tra gli ebrei". Gli dissi: "Oh ragazzo, che Allah ti faccia meritare il martirio. Tutte le armi devono essere puntate sugli ebrei, i nemici di Allah, nazione maledetta dal Corano, che Allah descrive come scimmie e maiali, adoratori del vitello e degli idoli". E un silenzio imbarazzante sulle fiction delle TV arabe ricalcate sul canovaccio dei protocolli dei savi anziani di Sion. E su Hamas, che vieta la pubblicazione di brani tratti dal diario di Anna Frank per non diffondere l'infezione della menzogna sionista. E sulle vignette dei giornali del Cairo e di Damasco, in cui l'ebreo viene sistematicamente raffigurato con il suo caratteristico naso adunco e il suo aspetto cupo e malvagio. E non c'è davvero bisogno di dilungarsi oltre. La cronaca quotidiana è fitta di segnali che denunciano l'avvenuta fusione nel mondo islamico, nei media, nelle scuole, nel senso comune, di sionista e di ebreo, e dunque di antisionismo e di antigiudaismo. E tu, antisionista laico, garbato, controllato, tanto preoccupato per gli spettri del passato, ti offendi se l'antisionismo, il diritto di criticare Israele, viene sospettato di essere contiguo, simile all'antisemitismo puro e semplice? Se nessuno di noi può essere accusato di condividere le colpe delle cattive compagnie che frequenta, è anche vero che nessuno è obbligato a scegliersele, quelle cattive compagnie, mentre dovrebbe essere obbligato a tracciare una linea di demarcazione con le loro malefatte e con le loro parole malate. E sul sionismo, storicamente, si è condensata una nebbia insalubre di parole malate. Chissà perché, a cavallo degli anni 40 e 50, l'accusa di sionismo colpiva con un ulteriore marchio di infamia le imputazioni che nell'Ungheria e nella Cecoslovacchia staliniste decimavano i dirigenti comunisti, a cominciare dall'ebreo Rudolf Slansky, giustiziati con condanne che sono la quintessenza della paranoia politica totalitaria. Chissà perché, negli anni in cui lo stesso Stalin riconosceva il nuovo Stato di Israele, si uccidevano in URSS i protagonisti del teatro Yiddish e si inaugurava la caccia alle streghe sioniste con il complotto dei camici bianchi. Chissà perché, quando si colpiscono gli ebrei, il sionismo diventa una terribile aggravante, come con i giovani polacchi nel 1968 e l'antisionismo una bandiera. Da sempre non su una linea politica, una singola scelta, ma sullo stato degli ebrei, sugli ebrei che rivendicano la loro autonomia nazionale. Chissà perché. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Pierluigi Battista, Lettera ad un amico antisionista, Rizzoli Editore, 124 pagine, 17,50 euro.